pensando ed io sono già sveglio per essere testimone della luce in quest'età. L'aquila taglia il cielo, disegna il mio orizzonte, l'occhio suo riflette dimensioni d'eternità. Più di te le schiere, uomini dei fuochi, milizia compatta che combatterà. Riunite le schiere, uomini dei fuochi, pronti all'assalto si combatterà. L'ultima battaglia ti aspetta Piero, l'ultima battaglia è il nostro dovere. L'ultima battaglia ti aspetta Piero, l'ultima battaglia. È silenzioso, il mostro si fa avanti, tenebra d'inverso, odio, marcio, falsità. Ma la veglia attenta nel cuore del guerriero donerà la vita, se il sacrificio lo vorrà. Riunite le schiere, uomini dei fuochi, milizia compatta che combatterà. Riunite le schiere, uomini dei fuochi, pronti all'assalto si combatterà.